parlare. Ah, ok. Buonasera a tutti. Ecco, adesso sentiamo Vision su Vulcano. Okay. Ho il piacere di presentare questa serata dedicata alla singolarità tecnologica, che vede presenti qui buona parte dei membri del gruppo italiano che si occupa della singolarità, che ci introdurranno un argomento di sicuro interesse che rende curiosi che rende curiosi sicuramente la maggior parte di noi, soprattutto chi non ne ha mai sentito parlare. La singolarità tecnologica ci verrà introdotta sicuramente da David Orman, il fondatore di Vulcano e organizzatore, diciamo, degli incontri precedenti che si sono che sono avvenuti a Milano, i cosiddetti Drink Link, sempre sul tema della singolarità. Stasera avremo fra noi Gabriz Ferraris di Second Life, Gian Del Coma, Markin Hulligan, Riccardo Cambiassi, Bru, Second Life, e Vitek Scheflo, anche lui è un membro attivo di Vulcano. Ringrazio come sempre, diciamo, tutta la comunità di Vulcano per la presenza e per la capacità di organizzare con una estrema semplicità e col sorriso sulle labbra eventi anche di questa rilevanza. Lascio subito la parola a David, in modo tale che ci possa introdurre e far capire che cos'è la singolarità. Ringrazio chiaramente Piramide Café, una comunità nella comunità, che ha preparato e ha regalato a tutti noi questa scenografia che ha sia del tecnologico sia dell'ironico, perché alle nostre spalle, alle spalle di David, abbiamo una simpaticissima caricatura di David stesso. Non lascio avevo parola, capito! Non avevo assolutamente capito di essere io, scusate. Troppo bello.